per lei. Ogni nota mi sembra possibile. Sopra la musica il suo corpo si snoda, diventa flessibile. L'aspetterò tra il cielo e le stelle in un mondo fantastico. La cercherò ogni volta che il buio mi ruberà l'anima. Già la chiamo amore, è terra profana per me. Guardare e non toccare, e cosa più bella non c'è. Cosa più bella di te. Già la chiamo amore, è terra profana per me. Guardare e non toccare, e cosa più bella non c'è. Cosa più bella di te.